Perché questo è uno dei nostri più grandi problemi. Il piacere è molto facile da trovare per noi. You've only got to sit on a train or a bus to see how people are always referring to their tablets. Non dobbiamo fare altro che sederci su un autobus o su un treno e vedere come le persone continuamente si relazionano, si riferiscono ai loro tablets. No? Yeah. Life without a tablet. Come sarebbe la vita senza un tablet? Inconceivable. È una cosa impensabile. And you see people if they're going to the countryside or they go to a show or they're watching something, they're actually watching it through their tablet. Quindi se le persone quando vanno a fare un giro in campagna, per esempio, guardano uno spettacolo o qualcosa del genere, lo fanno sempre attraverso questo tablet. It's as though they stepped out of a certain type of reality into this make-believe world of their tablet. È come se fossero usciti dalla loro realtà, fossero entrati in questa realtà un po' artificiale del tablet. Sitting on a train or just walking down the street, you see they've got their earplugs in, listening to music. Se usi sul treno oppure anche camminando lungo la strada, vedete che hanno questi auricolari, no? Stanno ascoltando la loro musica. So there's a sort of lack of silence. È come se ci fosse una mancanza di silenzio. And silence presents a certain danger. È come se il silenzio presentasse una sorta di pericolo. What do you do when there's nothing to do? E cosa si fa quando non c'è nulla da fare? So we run around like rabbits trying to do something. Andiamo in giro come dei coniglietti a cercare sempre di fare qualcosa. So this constant search for a level of happiness that really is to do with excitement. Questa continua ricerca di un livello di felicità che in realtà ha a che vedere con l'eccitazione. And when you have breakfast this morning and you're tasting just the pleasantness of the food. Quindi questa mattina quando andate a colazione state gustando questo piacere del cibo. Ask yourself, is it the food, is it the pleasant taste of the food that you're calling happiness, or is it the mental state that's arising from the food that you're calling happiness? Allora chiedetevi, ma è il gusto del cibo, il buon gusto del cibo che voi chiamate felicità, o è lo stato mentale associato al gusto del cibo che voi chiamate felicità? When you're listening to music, is it the music that you're calling? Is it the sensual, is it the actual sound of the music that you're calling happiness, or is it the mental state that it's creating? E quando ascoltate la musica, è il suono della musica che chiamate felicità, o è lo stato mentale che questa musica crea, la felicità? So once we begin to perceive that we're always trying to create a beautiful state of mind. Una volta che cominciamo a riconoscere che stiamo sempre cercando di creare un bello stato mentale. Then you can see where the desire is arising from. Quando riusciamo a vedere da dove nasce questo desiderio. So the desire is arising from within the heart in order to establish a pleasant or a beautiful state of mind. Quindi questo desiderio nasce sempre dal cuore che cerca di creare un bello stato mentale. And we'll do anything to manipulate the world, to manipulate people in order to make me happy. E faremo di tutto per manipolare il mondo, manipolare le persone affinché questo mi renda felice. And that's why we get so angry with people who don't do what we want them to do. Ed è per questo che ci arrabbiamo così tanto con le persone che non fanno ciò che noi vorremmo che facessero. So how to undermine that so that we move more towards a sense of contentment and silence. Quindi com'è che riusciamo a intaccare tutto questo e andare sempre più nella direzione di un appagamento e di un silenzio? So there are two ways which we can approach this this problem. Ci sono due modi per affrontare questo problema. First of all is to really begin to connect the suffering that arises from attachment with the attachment. La prima cosa è collegare la sofferenza che nasce da un attaccamento e l'attaccamento. So when we're enjoying something, remember, whether it's something physical like food or something, a relationship, or nature or art. Quando quindi stiamo apprezzando qualcosa, che può essere il cibo oppure una relazione o la natura o l'arte. There's a part of us that's using those things in order to make me feel happy. C'è una parte di noi che utilizza quelle cose per rendersi felice. Then it's while we are enjoying something, see, there's no problem. It is wonderful. Quando stiamo apprezzando qualcosa non c'è problema, questo è meraviglioso. It's afterwards that you have to connect the suffering that comes up with that happiness that you've developed. Ma è dopo che può nascere della sofferenza ed è importante collegare questa sofferenza con quella felicità che avete creato. So the first thing is just the compulsive nature of our desires. Quindi la prima cosa è vedere questa natura compulsiva dei nostri desideri. Which at worst become addiction. E alla peggio, nella situazione peggiore, diventano delle dipendenze. The frustration we feel, the anger we feel when we don't get what we want. La frustrazione, la rabbia che proviamo quando non otteniamo ciò che vogliamo. The grief when we lose what we have, what we dependent on for our happiness. Il dolore quando perdiamo o non abbiamo ciò da cui dipendiamo per la nostra felicità. And there is, because we know that things are unreliable, there's always a sense of anxiety underlying all our happinesses. E poiché sappiamo che tutto è inaffidabile, c'è sempre questo strato di ansia che sta sotto le nostre piccole felicità. And on top of all that suffering, there's boredom. E al di sopra di tutto questo c'è uno strato di noia. So it's not as though we can do the same thing constantly to get the same level of happiness. Perché non possiamo fare sempre la stessa cosa per ottenere lo stesso livello di felicità. We always have to change to find something which is going to bring up the same level of excited happiness. Perché dobbiamo sempre cambiare, trovare sempre qualcosa che ci riporti allo stesso livello di felicità eccitata. So we're always seeking the next good film. Quindi cerchiamo sempre il prossimo buon film. We like to move with different friends. We can't always stay with the same friend. That's boring. Dobbiamo sempre andare da un amico all'altro. Non possiamo sempre stare con lo stesso amico perché quello diventa noioso. We become blasé with the same scenery. We need to find other parts of the country which are beautiful. Dopo un po' diventiamo, come dire, un po' blasé. We don't even notice the views anymore because we're so used to them. Sì, diventiamo, ci abituiamo, diciamo, no, alla sempre la stessa stesso bel paesaggio, quindi sentiamo il bisogno sempre di cambiare, trovare qualcos'altro di bello, qualche altra parte del paese. So remember, the Buddha points out very clearly that a lot of our pleasure is to do with running away from pain. Ricordate che il Buddha dice che molto del nostro piacere ha a che vedere con il sfuggire il dolore. So as soon as we feel bored, we turn the TV on. We phone up a friend and tell them how bored we are. Appena ci sentiamo annoiati, accendiamo la TV per guardarci un film. o telefoniamo un amico per dirgli quanto siamo annoiati. So this constant chasing for a level of excitement, you see, we'll stop that when we see the suffering that's going. Quindi questo continuo rincorrere un certo livello di eccitazione, tutto questo si fermerà quando ci rendiamo conto di quanta sofferenza crei. Now the other side is to begin to develop a taste for silence. Quindi dall'altra parte invece c'è questo sviluppo di un gusto per il silenzio. A taste for contentment. Questo gusto per l'appagamento. And this you can do at any time of the day, any time and anywhere. E questo lo potete fare in qualsiasi ora del giorno, in qualsiasi luogo. By just drawing yourself towards the breath. E questo si può fare semplicemente ritornando al respiro. So when you begin, when you're doing your practice, you know, spend some time, usually at the beginning of a sitting, before the pain starts. Questo potete farlo, per esempio, all'inizio di una seduta, prima che inizi il dolore. Just to relax into the loveliness of the breath, see the silence of it, the gentleness of it. Quindi semplicemente immergetevi o rilassatevi nella bellezza del respiro, del fatto che sia così, del silenzio del respiro, questa calma. It's easier to do it with the walking meditation. È più facile farlo con la meditazione camminata. So do some walking meditation just to feel a certain contentment, a certain stillness. Fate un po' di meditazione camminata per sentire questo appagamento, questa soddisfazione, questa quiete. And if you're doing slow walk meditation and you can feel this sort of energy of wanting to do something, yeah. A volte magari fate la camminata lenta e sentite questa energia, questo voler fare qualcosa. And these little voices that tell us we're wasting our time. E poi magari delle vocine interne che ci dicono che stiamo perdendo il nostro tempo. So you just wait for all that to subside, to calm down. Aspettate che tutto questo si ridimensioni, che si calmi. I was once in the hills of Sri Lanka. Una volta mi trovavo nelle colline dello Sri Lanka. And I was walking along the little path. Stavo camminando lungo un sentiero. And some children came up and offered me flowers. E sono arrivati dei bambini che mi hanno offerto dei fiori. Very nice. Molto bello. And they took me back to where their parents were sitting. E mi hanno portato dove erano seduti i loro genitori. The parents were living in just a wooden, what we would call a wooden shack. E questi loro genitori vivevano in quello che chiameremo una capanna di legno. And they were sitting at a table outside. Erano seduti a un tavolo fuori. And they were looking down this very beautiful valley. Stavano guardando giù questa bellissima valle. In complete silence. In completo silenzio. There was no TV, no books, no nothing. Non c'era né la TV, né i libri, nulla. I've seen people in the East less and less now because of the change in towards consumerism. Questo spesso si vede in Oriente, ma sempre meno adesso proprio per via dei cambiamenti dovuti al consumismo. But I've watched a person just sit in front of a window watching a fly going round. Ma ho visto una persona seduta davanti a una finestra a guardare una mosca che girava. We would think that a complete waste of time. Noi questo lo considereremmo una completa perdita di tempo. So here you see, just find a seat sometimes and just let your eye rest upon this beautiful scenery. Qui potete farlo, trovate una sedia e lasciate che gli occhi riposino su questo bellissimo paesaggio. And let the quietness of the countryside enter into the heart, you see. E lasciate che il silenzio del paesaggio vi entri nel cuore, penetri nel cuore. Yeah, and then when you feel the contentment and peace in the heart from caused by what we're looking at. Quindi quando sentite questa pace, questo appagamento nel cuore che è stato causato da ciò che stiamo guardando. So then close your eyes and go into the heart and really feel the contentment there. sense of peace or joy. Chiudete gli occhi, entrate nel cuore e sentite questa gioia appagante. And just ask yourself, questo appagamento gioioso, questa cosa. Sì, sì. And just ask yourself, is there a better place to be than in that excited mode of always trying to chase some excited happiness? E poi chiedetevi, non è un luogo migliore dove dimorare piuttosto che continuamente cercare questa gioia eccitata nel mondo? So it's in this way that we slowly begin to move towards just this level of contentment and silence. È in questo modo che noi lentamente, gradualmente, riusciamo a muoverci nella direzione di un sempre maggior silenzio e pace, appagamento. Now, what we find is that all the energy that we used to put into trying to become excited, trying to become happy. Quello che scopriamo è che tutta questa energia che noi mettiamo nel cercare di essere eccitati o felici, it's still there, and we can put it into our daily life in a much more skillful way. È ancora lì, però noi la possiamo mettere nella nostra vita quotidiana e utilizzarla in un modo più funzionale, più abile. Because when we're at work, this excitement is always putting a certain stress into what we're doing. Perché quando siamo al lavoro tutta questa eccitazione è come se aggiungesse o mettesse un certo stress in tutto quello che facciamo. But if we are in a state of quiet contentment, then all the energy which is normally disappearing into this excitement is put into the work. Ma se abbiamo dentro questa quiete appagata, allora tutta questa energia eccitata che di solito abbiamo, la possiamo indirizzare verso il nostro lavoro. You might have a hobby such as a gardening or some woodwork or something. Magari avete un hobby come il giardinaggio oppure lavori di falegnameria, bricolage. Usually when we're doing something like that, we are in a state of calmness and enjoyment, and we're actually doing something which is creating beauty. Di solito quando stiamo facendo un'attività di questo tipo c'è dell'appagamento, c'è della calma, e di solito stiamo facendo qualcosa che crea bellezza. So if we can begin to transfer those qualities into every part of our lives, then we naturally move towards happiness. E se riusciamo a trasferire quella qualità nella mente in tutto ciò che facciamo nella nostra vita, ci stiamo muovendo verso una maggiore felicità. So now we see, begin with this exercise around eating. Adesso cominciamo con questo esercizio intorno al mangiare. So just take the position of yourself, of the objective observer, the scientist, trying to understand your psychology. E quindi prendete questa posizione dell'osservatore obiettivo, dello scienziato che cerca di comprendere questa psicologia. And try to distinguish the difference between enjoying something and indulging. E cercate di capire bene fare questa distinzione tra l'apprezzare qualcosa e l'indulgere a qualcosa. So, first of all, to distinguish the process of tasting. Just the physicality of tasting, the sense base of tasting. Intanto cominciate a distinguere questo gustare, la fisicità del gustare. And then come just, processo. See? And then just this process of desire, you see. E poi questo processo del desiderare, del desiderio. So remember to put the spoon down after you put the food in your mouth. Quindi ricordatevi, dopo aver preso un boccone, di mettere giù il cucchiaio. Because the old habit of shoveling in, you know. E questo va contro questa vecchia abitudine di continuare a buttar dentro. So, and then just to chew, just to swallow, just to feel the desire, you see, and then the decision to eat. E poi questo masticare, ingoiare. E poi vedete come nasce di nuovo il desiderio di continuare, di prendere un altro boccone. And then to begin to recognize l'intenzione anche di mangiare. Sì. And then to begin to recognize how the heart begins to move, it begins to feel happy. E poi cominciate a riconoscere come il cuore comincia a muoversi, comincia a sentirsi felice. Just to observe, just that's enough. Just observe it, just feel it, just experience. E quindi è sufficiente semplicemente osservare, sentirlo, esperirlo. That's enough. È sufficiente. Have real confidence that there is in us this amazing intuitive awareness which can understand things. Quindi abbiate fede, fiducia che dentro di noi c'è questa consapevolezza intuitiva incredibile che ci permette di conoscere. And then remember, after that, if there's any space of time, you know, give the mind something to do. E poi dopo la colazione, se c'è del tempo, date sempre alla mente qualcosa da fare. And at when you're working, you always give yourself a good reason for doing it. Quando state lavorando, datevi un buon motivo per farlo. Attention and care. Quindi le due parole chiave sono attenzione e cura. And then just to put your whole attention into what you're doing. Poi mettete tutta la vostra attenzione in quello che fate. The mind wanders, you note what is drawing the mind away and you bring yourself back to the work. Quindi se la mente divaga, riconoscete quello che sta facendo la mente e riportatela al lavoro. So this again you take into all the daily life. E questo di nuovo lo riportate nella vostra vita ordinaria. Very good. Bene. Buon appetito. Grazie.